Farò anche quello. vabbè, una volta che sono andato da un consulente per farmi controllare un 730 che mi sembrava troppo alto da pagare, erano quasi 3.000 euro che dovevo dare perché ero uscito fuori, praticamente avevo guadagnato più soldi di quello che dovevo guadagnare tra pensione e stipendio, e mi avevano messo quasi 2.900 e passa euro. Sono andato da questo consulente sul lavoro e mi ha bidato 40 euro, quasi quanto si prende per fare i 730. Perché loro sono privati? È normale, loro sono privati, però da privati hanno, sono molto più, diciamo, aggiornati del sindacato, del patronato. Io mi metterei in mano a un consulente di lavoro, anche pagandolo, però mi sarei messo in mano a un consulente di lavoro. Vabbè, ma questo è il mio pensiero. Va bene, già, io ti devo lasciare, devo uscire, vai, ci sentiamo. Ciao. Ciao Eugenio, dai, buon lavoro, ci sentiamo, dai, magari stasera se rientri, dai. Avanti se c'è qualcuno sul 10. Ciao, già, ciao. Ciao, ciao. CQ canale 10, c'è qualcuno? CQ10. Avanti che vuole fare qua sul 10. Ciao Claudio, poi sentite. Prova a parlare, sempre dell'85 qua. Ah, forse sei leggermente troppo forte, o ti sei troppo avvicinato alla bocca, al microfono. Sì, adesso va benissimo, non è un no problem. Se volevo dire 14 per l'anno 60. MC60, naturalmente che siamo in condizioni che non si è alzato, ma non è sottoccato, perché normalmente lo vendono dagli 80 euro in su, diciamo 80-90 euro il valore suo delle, poi se con la scatola anche qualcosina in più, se perfetto, integro, diciamo anche 90 euro un buon prezzo. setup è un prezzo molto molto basso, poi devi avere le spedizioni naturalmente. Ok, ma funziona il cellulare di lì, a casa tua? A Claudio Di Muros, se aspetti 5 minuti, tanto è un'informazione veloce. Ciao Roberto e ciao anche a Claudio, ti hai sentito qua? E niente, dai, sto entrando adesso. Certo che la conosco, l'ho anche guidata con la macchina. Ascolta, niente, ma come macchina sostitutiva oppure la deve usare tuo padre? Già lo so, quello si paga un medico di bollo e di assicurazione, però è una bella macchina, dai, magari essendo d'epoca no, forse non lo devi pagare il bollo, vero? Leggermente il microfono, sei ancora troppo alto, stai leggermente strappando. Poi c'era qualcuno quando stai parlando dava dei colpi di portante, non ti faceva niente, però si sentiva sotto. Cos'è, una GT o GTV? Spiegami, non ho capito. Poi paghi il bollo ridotto perché c'ha più di 20 anni con la macchina, adesso nel 2025 fa 30 anni, per cui c'è solo la tassa di circolazione che sono circa 30 euro all'anno. In questo caso, visto che c'è più di 20 anni, paghi la metà del bollo più o meno. Quella quantica ci avrà 150 cavalli, mi sa, con la macchina. una bella cosa, interessante che sia bella lucida, bella tenuta, perché questi del club sono di quelli maniatici, le tengono maniacalmente le macchine. Ma è il V6 turbo o visto il V6 aspirato? No, quello è un motore, quello c'ha più di 150 cavalli, forse ne avrà 180 o 190 pure quel motore. Tirarla la macchina che ti esci da sotto lo gulubi. Allora, un attimino Gianni. Qua sogno. Avanti se c'è qualcuno sul 10 che vuole entrare. Avanti sul 10 c'è qualcuno che vuole entrare. Ci sono di nuovo Gianni, sì? Sì, sono qua. No, volevo chiedergli una cosa, della macchina, che non mi piace parlarne in radio, voglio sempre parlarne esternamente, c'è troppa gente che ascolta. E vediamo se Claudio rientra. Sì, va bene, lo sai cos'è che tu c'hai, non so se ha un difetto, vabbè, che molte volte ti avvicini troppo il microfono, anzi troppo la voce, troppo una via di mezzo del microfono, tanto ti ascolto fortissimo, arrivi forte di segnale, forte di radio, se no è un po' distorta, magari con un baracchino uno non se ne accorge, ma io c'ho l'altoparlante esterno, l'altoparlante grasso, quello è grosso, quello ti toglie fuori tutte le imperfezioni. Comunque va bene adesso. Ok, di nuovo a te Claudio che poi farai girare per Gianni. E comunque per me la radio va benissimo, Robè, arriva bene qua, non è fortissimo come dici tu, forse tu perché sei vicino a lui. È più forte di te pure la sua modulazione, considerando che lui ha un microfono da palmo. Come metterai il coso, Claudio? L'MC60, ti metti seduto come sto io, 50 cm più o meno dal microfono, tieni la stessa tonalità senza strillare troppo e vedi che non c'è bisogno che nessuno ti dica di abbassare, perché la radio era chiara, però stavi leggermente saturando, un peluzzino di distorsione c'è, e magari uno che è un po' più lontano non se ne accorge, però io che lo ti sento 9+20, c'è quasi il segnale di Gianni lo supera 9+20 e tu ci arrivi con la modulazione. Ok, di nuovo a te Claudio. comunque io Robert sto scendo con 4 watt adesso, sto scendo con un apparato omologato con 3.900, va benissimo questo apparecchio qua, anche se è omologato, di solito vi dico tutti che mi sentono bene, dai. No, assolutamente, non sto dicendo quello di Gianni, che stavo dicendo che lui c'ha quasi il tuo segnale, considerando che arriva da Mulos, tu arrivi 9.25, lui arriva a 9.20, e modulati naturalmente, senza segnale appena meno di 9.20 e tu sei 9.20, spaccato, no, niente da eccepire, però rispetto alla tua modulazione, lui poco fa ce l'aveva simile, però era un pochettino saturina, dai, appena distorta, dai, ascoltabile, niente da dire, l'avrebbero voluto tanti con la modulazione, comunque andava bene. Poi un'altra cosa che volevo dire, non so se l'avete ascoltato, c'è un nuovo amico qua sul canale 10, infatti ieri ci siamo sentiti, anche se dalla voce ci siamo ascoltati in altre bande, un certo Daniele, che tra l'altro abita qua vicino a me, mi ha detto, è un radioamatore, lui adesso ha piazzato l'antenna, se deve mettere, c'ha la Mantova Turbo, c'ha la Game Master, adesso deve vedere se riesce a mettere la Mantova Turbo, abita vicino più in giù di me, a me arrivava a 9.30, però considerando che eravamo molto vicino, ho detto, guarda, stavo uscendo con un'antenna di macchina, speriamo che entri anche oggi, è una persona veramente squisita, abbiamo fatto una bella conversazione, stavamo parlando di tante cose, è una persona molto competente tra l'altro, ed è stato un piacere ascoltarlo, speriamo che entri anche oggi, detto che qua sul 10 c'è sempre qualcuno, vi speriamo bene, dai. Lui si occupava di punti ripetitori eccetera eccetera, come lavoro adesso non abbiamo approfondito, comunque è una persona piacevole, molto piacevole e rispettosa. Di nuovo a te Gianni, che farei girare per Claudio. Vabbè, noi quando entrerà l'accoglieremo, non c'è problema, dai. Ci fa sempre piacere che ci sia gente nuova, specialmente se gente educata, va benissimo. Avanti Claudio. Del 950 e del 940 della Kenwood, una bellissima radio, molto imponente come dimensioni, forse anche un po' più grande del coso, bellissima, molto ricercata, chi ce l'ha se la tiene, me la conto, anche se dobbiamo dire una radio di qualche anno, cioè qualche decina di anni, per cui i problemini potrebbero nascere, però è sempre una grande radio, è un grande ricevitore, un buon modulatore, niente da dire, alimentato dentro il contenuto, facevano anche la versione da 200 watt di quella, però non so se c'è in Italia, se ne siano arrivate più di tante, comunque tira fuori più di 100 watt quella radio, molto molto imponente e bella, come piaceva a me, con i manopoloni eccetera, e se la trovi a un prezzo ragionevole si può prendere tranquillamente. Forse si è allontanato, no, l'effetti 1000 è una grande radio, il problema del 940, allora il 940 è una radio eccellente, guai a chi me la tocca, però stanno iniziando ad avere problemini, anche a me mi stanno dando i problemini, ogni tanto si accendono quei puntini ed è un problema a ripararlo, lo devo spedire a ripararlo, lo devo sempre fare, poi quando mi decido si rimette a funzionare perfettamente, tra giorni e giorni funziona, questa estate mi ha lasciato a piedi un paio di volte, allora l'ho spento e non l'ho utilizzato e sono passato al TS2000 per le HF, però non una grande radio 9, però lui ci ha messo male, quando tocchi quelle radio ci vogliono attrezzature, tra l'altro secondo cosa tocchi fai dei danni, chi te le ripara sono pochissimi, perché quello che ho chiesto io da riparare è il più bravo di tutti, ha detto che non metteva le mani perché aggiusti una cosa e poi dopo una settimana ti si rompe un'altra cosa, sono radio che hanno 40 anni, per cui non ti può dare nessuna garanzia, preferisce non toccarle. Sono riuscito a trovare una persona tramite Marco, che è un grandissimo riparatore del continente, che con tanti sacrifici di Marco e richieste varie è riuscito a accettarlo, ha detto spedissima, per il momento non ho tempo, mi sto usando, cioè, sulle FT3000 e le TS2000, poi quando ho tempo, però se si equivalgono più o meno, anche se devo dire a me piace più il 940 delle FT1000, però se trovi il 940 garantito, collaudato e allineato è una cosa, se no sono problemi, ti possono essere problemi, a quel punto è meglio tieniti le FT1000. Seconda mano saranno sempre problemi, poi magari se lo trovo buono anche a seconda mano va bene. C'è qualcuno che forse vuole entrare avanti, chi vuole entrare? Ogni tanto hanno colpi importanti, 9 più 20, non so se lo facciano apposta o qualcuno che non vuole uscire, vabbè, no problem. E quello che avevi tu era il D, la versione D o la versione MP dell'FT1000, Claudio? conoscere la persona che ce l'ha, magari se conosci la persona che li tratta bene, che ha parecchi come si deve, ne vale la pena, se no sono soldi buttati. Poi se hanno difetti, come ha detto Roberto, puoi trovare uno che te li aggiusta, è un casino. Se tu hai disponibilità di 1000 euro, poco meno di 1000 euro, c'è il nuovo della IESO, l'FDX, FD 710, appena uscito, una radio pochissimi mesi, a luglio è uscita una radio eccellente, l'ultimo ritrovato della IESO, l'ho fatto per abbattere il mercato, perché c'era il 7003 della ICOM e stava distruggendo il mercato, tutti con 7003, non è una radio troppo grande, completamente digitale, con display, analizzatore di spettro, la cascata, il generatore di cascata, i moduli dei segnali, tutto, per attaccare il monitor esterno, c'ha tutto, in una dimensione di diciamo un po' meno del 4,40 come dimensioni, diciamo 3/4 di 4,40, però un pochettino più basso. Quella è una radio eccellente, io mi stavo comprando quella lì, poi mi è capitata l'occasione di un FT3000 DX nuovo, fiammato, uscendo da negozio con le scatole originali, manuali, le cose ancora mai usate, i microfoni dentro la busta, l'interfaccia ancora dentro la busta, mai uso, proprio nuovo, sono andato a Simile e me lo sono comprato, perché a me piacciono le grandi, c'ha tutto, una radio completa, doppio ricevitore, e poi veramente bella, e ho deciso, ho chiesto informazioni agli iscritti, mi hanno detto guarda sono ottime radio, però col 3000 per l'uso con effetto forse c'è qualcosina in più, però quello le 710, se c'è disponibilità di soldi, ti danno una radio con 5 anni di garanzia, nuovissima generazione, bellissima radio ed eccellente, che ha sostituito l'FDX 10 che era la stessa, una grandissima radio, però costava 400 euro in più, questa hanno abbassato di 400 euro con le stesse prestazioni dell'FDX dietro, per certi versi anche un pelosino migliore, anche se leggermente più piccola. E diciamo il Millone, il 1000, l'FT 1000 che stai dicendo tu, è una radio più imponente, più bella, più tutto, però come prestazioni questo è leggermente superiore, e ti compri una macchina, una radio nuova che ti può servire per altri 10 anni con garanzia di 5 anni, e questo è il discorso. Ok, 757 l'ho avuto io, il GX2, te lo ricordi? L'ho trovato pochissimo, ma mi soddisfava, l'ho dato a una persona, lui se l'ha usato, non so se ce l'ha ancora, in AM mi sembra che tiri fuori 25-40 watt, però è un 140 leggermente meglio del 140, a me sinceramente non mi ha mai più di tanto, diciamo, non mi è piaciuto come radio. Ieri l'amico Daniele, quello radioamatore, ce l'aveva qua in radio, il 27, e usciva abbastanza bene, posso dire, non me la radio col suo microfono originale usciva più che bene. Ok, di nuovo a te Gian nel Mike, che poi passerai a Claudio. Vabbè, sono radio che costano quelle, sono radio che hanno i suoi costi, ma sono belle radio, la verità. La prendi, se la prendi nuova, io ci avrei fatto piacere a quello che ti ha detto Roberto, perché almeno ce l'hai, è nuova, se ti fa difetti roba del genere, garanzia, e non devi niente a nessuno, capito? Invece la prendi a seconda mano, magari con i componenti usurati, da un momento all'altro ti si può rompere una cosa, l'altra, è un casino. quella, se hai disponibilità, secondo me è una bella radio. Sì, sicuramente. No, come ho detto prima, sono scelte da fare uno. Se vuoi una radio di ultima generazione che la puoi interfacciare col computer direttamente, col monitor, quella 7110 è una grandissima radio, è il top del mercato. L'FT5000 è la radio dei miei sogni, una delle radio dei miei sogni, però è fuori mercato con le mie possibilità, ho già speso tanto per l'FT3000, mi fermo, basta, se no non esci più. E l'FT3000 rispetto al 5000 non ha il doppio, questo c'è il doppio ricevitore, utilizzare due frequenze diverse, mentre il coso, l'FT3000 c'ha doppio trasmettitore, oltre che doppio ricevitore, l'ha diventato dentro contenuto, sono simili come prestazione, leggermente meglio magari l'FT5000, ma come età siamo lì, come tipo di radio, il fratello maggiore è il 5000 del 3000, poi c'era il 9000, però conosco gente che c'ha il 5000 e ha venduto delle radio più recenti e più costose per tenersi il 5000, una radio top. Attualmente ce ne sono poche di radio che riescono a superarlo, basta chiederlo a Marco, chiederlo a Fabrizio, eccetera eccetera, e radio ben più costose non hanno le prestazioni di quel tipo di cose, di apparecchio. Grandissima radio, top veramente, solo che non ha trovi meno di 2000 euro, se la trovi meno c'è qualche problemino, se la vuoi impeccabile devi spendere 2000 euro in su con la radio, però hai il top delle radio, eccellente. Ha dato Mattana radio ben più costose di tipo l'FT9000, qualcuno ha mollato l'FT9000 per tenersi 5000, perché era una radio un po' problematica, qualche problemino, anche se devo dire una radio fantastica anche quella lì, però chi ce l'ha avuta tutti e due si è tenuto 5000. Claudio, Gianni, a te il mic. Io c'ho il tipitopio, non va bene. Cosa hai detto? Io c'ho il tipitopio con la cuora liquida. Abbassa il volume, se no mi faccio la tua parlare. Allora non sarei più il tipitopio, se sono un tipitopio è così, io c'ho il tipitopio. Cos'è questo? questo è? Questo è il lo Yoish, il grande, il tippy top. Cosa è grande? Cosa vuol dire grande? Il 75 è grande, diciamolo del tuo. Ehi, però abbassa, c'è troppo forte il radio qua, veramente troppo forte. Troppo forte c'è ancora. Al marito e va rotto questa sfondato questo salvadanaio e lo doveva aggiustare, l'ho salvato. Poi state attenti perché se vi si attaccano le dita c'ho questo prodotto, perché se no non vi si staccano più, vi si stacca la pelle. E dopo che era Vauraggio. Se non andava per comprare, andavo avanti a buon uomo io cazzo con cosa, come dove c'era Ricola in consiglio, c'era Ricola in lì dove c'era il consolato, cazzo andavamo, c'avevamo una bicicletta, avevamo, buonasera, cazzo poi, tiro buono, bastardo, allora, ho detto, cazzo dove andiamo a giocare, mi dice, Buttiglione, buongiorno, c'è Buttiglione, non è che c'ha il, la cameraina, lo sì, diciamo, intanto non mi chiamo Buttiglione io, mi chiamo Dincavino Dinteri, e poi, non aggio da Gerisi, viaggio a 14, viaggio a 12, viaggio a 5, ma mi dice da Gerisi, ma io da Gerisi non viaggio, ma c'è cazzo, vabbè a fare la distintina, ci ha buttato fuori, cazzo, non ci faceva più entrare. la sedete uguale alla mia, infatti ho detto, ho dato 3.000 o 3.000. Cazzo uguale alla tua, ma cosa cazzo dice contente? È anche più grande della tua. Doppio display, equalizzatore, DSP, uguale a 2M, cosa dice? Uguale alla tua, precisa identica. Sono leggiti il manuale, è lo stesso software, uguale. Anzi, ti dirò, questa c'ha tre colori di display, la tua è un cazzo, la tua andiamo solo, è molto più grande della tua anche. Vabbè, mi ha chiamato, l'hai visto il display di cosa? Un televisore, il display di quello lì, che c'ha tutte l'analizzatore di spettro e tutto. Vabbè, non me ne ha fatto nulla, ognuno fa quello che vuole. No, ma se fatto avessi preso le FT 3000, metto, uguale alla tua, pensavo che andava a miliardo le FT 3000. Sì, uguale, nel senso che hanno le stesse cose, non è che cambia. Iaesu sono Iaesu, 920 è uscito subito, 3000 è uscito prima, perché io c'avevo 2000, e 3000 è uscito dopo il 2000, quindi 920 è uscito dopo il 2000, quindi sono lì dello stesso anno, insomma. Sì, più o meno qualcosa, beh, li fanno per politiche commerciali, perché poi lei come ne fa un'altra, loro ne vanno a fare un'altra, magari le radio sono precise, cambiano due interruttori, però la funzionamento e la retro dell'interno sono tutti più o meno uguali, ci sono poche differenze. Ok, però mi stai facendo sordo continuamente, ti sto dicendo come mai sei così forte, Cla? Io te l'ho spiegato, ma tu non sei attento. Poi fra qualche settimana ti faccio vedere cosa sta arrivando, così te lo faccio vedere io la top, visto che ti piace il top. Capito? Perché Fabrizio si prende il 101, il nuovo Iaesu, e io prendo quello di Fabrizio. Ho già mandato la CSong a fare gli aggiornamenti del software 5000, è già pronto all'arrembaggio. L'hanno valutato, insomma, una buona valutazione, però mi conviene prenderlo così perché altrimenti costerebbe troppo. Ti ho detto che sto usando l'MC60, MC60 col cavetto Iaesu che mi ha fatto Fabrizio con l'FT920. Ho capito, però puoi abbassare il volume, come abbassi tutto le radio, lo puoi fare un pochettino più basso. Ci provo, ma cazzo, non mi ha detto mai nulla nessuno. Cazzo, tu ci devi intendere come te cazzo è uno, cazzo. Non le piace l'ecco, è troppo alto, è distorce, e cazzi, e mazzi, nincia, cazzo. Adesso mi entra di nuovo nel menu, che palle che sci... Minchia, cazzo. Mi fa incasinare tutto, ecco qua, menu, approach. Allora, te l'ho abbassato di una cacca, così meglio va. Ma il processore, il livello microfonico, c'era un bel forte rispetto a loro, mi serve indietro il sonno, devo abbassare il coso, c'è un altro parlante all'altezza d'orecchio, quello della Iaesu, quello grosso, e mi sta facendo, devo abbassare il volume, cioè no, e poi devo risuonare quando parlano loro. No, questo processore nemmeno ne ha. Non ne ha processore come il tuo, no, in AM la Iaesu non ne hanno processore. Il livello del Michigan ce l'ho al 30%, l'ho messo al 20%, cazzo ancora devo abbassare. Sarà così, no, è fortissimo, ti sto dicendo è fortissimo, rispetto a loro almeno. Che cosa poco fa Claudio Di Muro, se era troppo alto, stava leggermente strappando, distorcendo, no, strappando, distorzione. Ok, vabbè, lascia stare così. Cosa volevo dire? Lasciamo un secondino al bianco se c'è qualcuno che vuole entrare, perché ogni tanto sento qualche colpo importante. Avanti, chi vuole entrare su 10? Nulla, Gianni ci sei ancora e poi passare il mic a Claudio. Vabbè, ma tu esci col 440, stai modulando. Eia. Qual è più forte, Gianni, la modulazione, la mia o quella di... o quella di Roberto? Non ho capito, Cla, perché stava parlando bene, ma qua non si capisce niente. Ho detto, qual è più forte la modulazione, la mia o quella di Roberto? Prova, Roberto. Questa è la mia parlata normale, sono a 50 cm dal microfono, probabilmente lui va a un tono di trombone, sicuramente arriverà più forte di me. A me, rispetto a voi, mi sta facendo sordo, Claudio. Allora, non è questione di più forte o non più forte. Roberto c'ha più acuti e tu c'hai più bassi, sono forti tutti e due le radio. Vedi, questa è equalizzata, 440, no, questa c'è l'equalizzatore incorporato. E poi l'abbiamo regolata con il nostro Marco, quindi non la tocco, perché poi mi sfascia la modulazione in SSB, capito? Vabbè. Però ti ripeto, te l'ho detto l'altro giorno, se fai l'abbinamento Iaesu, vabbè che c'hai anche l'MD100 adesso, ce l'ho anche io ma non lo uso. Io uso l'MC60 con lo Iaesu, perché spinge molto molto di più. Avanti Claudio. Thank you. il tip e il top, capito? Fa due cose, siccome c'è il doppio di fili, no? Puoi fare 40 e 40 con doppio UFO, a differenza di quella che c'ha, Roberto, questa c'ha proprio il doppio UFO, ricezione e trasmissione. Puoi fare 40 e 40, 20 e 20, 40 e 80, 15 e 20, 10, 27, tutto fa. Questa c'ha la scheda anche MFM per la 27. E lo chiamo tip e top, poi c'ha doppia banda, capito? Sì, 0,50 e VU, una ragione, grande quanto il 9,40, è analogico, gran bella radio, sì, ho avuto anche quello, 767, 787, 757, sono tutte di quella categoria lì, come il K, dal 140, 440, insomma, da quella serie lì, sono grigie, molto, molto belle, ma 767 è una gran bella radio. Gran bella radio, l'ho avuta, sì, è grande quanto il 940, ha un grande funzionamento, funziona molto bene, sì, ce l'aveva Massimiliano, l'ho avuta anche io prima di lui, poi ce l'aveva presa lui, poi ce l'aveva venduta e ce l'aveva preso il capo. Ok, avanti Gianni. KK. Vabbè, comunque lo stiamo ascoltando stasera, esce molto bene senza quella roba là. Sì, ma glielo vedo Gianni, anch'io, io ho fatto le prove anche stasera sul 20, non serve a niente equalizzare, fare, mettere, no, saltate tu, sì, va benissimo, alla grande, quella la tua voce va bene, si assomiglia molto a quella di Eugenio, va benissimo, sì sì, hai ragione, va bene, intanto non... tutti pensano che possono andare col K ai miei livelli, non fa, perché io ho un altro timbro di voce diversa, spingo con molti acuti, quindi come vedi, se tu adesso, Roberto ha lo stesso, una radio simile a questa, attacca il microfono alla tavola, lo usa a 27, sicuramente non esce come sto uscendo io, è diversa, è una cosa diversa, non venuta da là. Come dice Mastro Giulio, io anche se modulo col corno di bue, la modulazione non cambia, vai Roberto. Ega, tu sei grande parente di lontano con Alberto Lupo. Lupo sì, io sono Lupo. Non è una brutta modulazione, è che avete una timbrica diversa, è sempre fatto di timbrica, però anche a Roberto esce molto bene. Il lupo mio Natalino. E allora, no, anche Roberto va bene col K. Ti porta bene il K e Tino. Natale lo porta bene. Io la timbrica mia è questa, non c'è niente da fare, già viva. Non c'è niente da fare, così è molto bene, molto bene. Cosa vuoi dicendo, Clau? Non mi ricordo più, cazzo. Ah, l'avete trovato poi 60? sì, ma nei 60 gli marciavano tutti bene, che non poi tempo a questa parte difettano sul trattino del preamplificatore. Io avevo adottato il sistema e praticamente l'avevo eliminato, l'avevo messo diretto, e quindi non lo fa più quel problema, capito? Infatti adesso con le massimiliano